le 15:01, alla voce Ottavia, alla regia Federico e David, ai controlli del soundtrack di oggi che riguarda un film mitico e anche un po' così complicato dal punto di vista critico, Wim Wenders, Fino alla fine del mondo. Una trama abbastanza spigolosa, nel senso che comunque il film si divide in due parti fondamentalmente. La prima parte è un road movie che racconta proprio quello che sono le tracce e la filmografia di Wenders, che appunto ripercorre appunto l'idea del viaggio in molti dei suoi film di esordio. È la storia di una donna, Claire Turner, l'attrice Solveig Dormantin, che ha un incidente e che coinvolge alcuni rapinatori con cui finisce per fare amicizia, unendosi a loro per un viaggio verso Parigi. Durante il tragitto incontra un uomo in fuga dalla legge, William Hart, la cui attività è molto misteriosa perché fugge inseguito dai servizi segreti di una superpotenza, portandosi appresso uno strano marchingegno con il quale cattura immagini che intende consegnare alla madre affetta di cecità e che vive in Australia con suo padre. E questa è la prima parte del film. La seconda parte del film si svolge appunto in Australia, quando William Hart e Claire e Solveig Dormantin arrivano e incontrano in questo deserto la famiglia di William Hart, e cercano appunto di dare immagine a queste immagini catturate attraverso questa fotocamera digitale, eccetera, per insomma affrancare dai ricordi che non aveva mai avuto la madre appunto del nostro protagonista insieme a Claire. Che succede? Succede che alla fine, dopo questa partenza disagevole che appunto trova la sua logica narrativa nella seconda parte del film, Claire, ricettiva, riesce a inviare queste immagini a Edith, che muore e gli esperimenti continuano finché i due protagonisti diventano quasi drogati da questa realtà onirica di cui vengono a far parte, e piano piano riescono attraverso varie vicissitudini a tornare alla realtà. E questa era Sax and Violins dei Talking Heads, della colonna sonora di Fino alla fine del mondo. È una colonna sonora bellissima, un album da ascoltare dall'inizio alla fine, e con un filo conduttore fra tutte le musiche, e ci sono tantissimi musicisti, tra cui Lou Reed dei Talking Heads appena ascoltati, e ci sta anche c'è Patti Smith, i Rem, gli U2, Nick Cave, e alcune musiche sono state scritte apposta per la colonna sonora, tra cui questa qua dei Talking Heads. E dice David Byrne, dice che ha proprio pensato, scrivendo la musica, ha pensato al fatto che il film si ambientava nel futuro, e quindi cercava una musica, anche le parole, cercava di esprimere quello che lui immaginava il futuro. Sì. È così. Anche dare una suggestione di atmosfere un po' apocalittiche, no? Che comunque il film ha, visto che insomma parla di questa distruzione di questo satellite che comporta la fine del mondo, no? Io volevo aggiungere una cosa rispetto alla protagonista femminile, la Dawn Martin. Volevo ricordare che è una delle protagoniste di quel capolavoro che è Il cielo sopra Berlino, che è il mio film preferito di tutti i tempi. Kisses, winter tears that were kisses went to your teeth. E la dolcissima Summer Kisses and Winter Tears di Julie Cruz. E chi non la conosce? Chi non la conosce? Nasce come cantante e attrice e inizia una discreta carriera musicale come solista, arrivando al successo grazie a David Lynch, che insieme a Angelo Badalamenti hanno collaborato con lei nella stesura di testi e arrangiamenti vari. Nell'85 con il film Velluto Blu e il pezzo Mystery of Love, che è il pezzo con cui il film chiude, inizia il suo successo. E infatti Lynch e Badalamenti scrivono per lei e producono per lei molti altri pezzi che finiscono anche nel suo album di esordio Floating into the Night del 1989. Nel frattempo la Cruz diventa il perno di altri lavori di Lynch come Industrial Symphony No. 1 e della sua colonna sonora del serial televisivo I Segreti di Twin Peaks del 1990, in cui la canzone Falling diventa il tema orchestrale della serie e vince un Grammy Award come miglior brano strumentale, mentre la colonna sonora, che contiene tre pezzi cantati dalla Cruz, diventa una delle colonne sonore televisive più vendute di tutti i tempi. Nel 1991 registra, sotto la produzione di Lynch e Angelo Badalamenti, una cover di Elvis Presley, appunto Summer Kisses, Winter Tears, per la colonna sonora del film Fino alla fine del mondo di Wim Wenders, di cui voglio ricordare che per realizzarlo Wim Wenders ci ha messo 14 anni e 23 milioni di dollari. E le riprese effettuate per il film si sono svolte in 15 diverse città in 7 paesi su 4 continenti diversi e il film fu un flop al botteghino. E mi inquieta dirvi, però è così, che il massacro della distribuzione forse è stata la causa di questo disastro al botteghino, perché la versione originale era di 5 ore e pare che questo taglio a queste 5 ore abbia stravolto la storia. Io non oso pensare che cosa sarebbe potuto succedere se fosse uscito. Beh, è praticamente dimezzato, perché sono 2 ore e mezzo la versione uscita. Ma io trovo che è stato anche giusto dimezzarlo, perché insomma più di quello che è stato detto nel film in 3 ore non si poteva dire. Comunque il regista tedesco maschera il road movie della trilogia della strada con la fantascienza delle collocazioni temporali e tecnologiche, e bisogna dire che fu veramente profetico. Perché in questo film del 91 si parla di videofonini, cruscotti computerizzati e altri dispositivi elettronici che oggi sono di uso comune. A parte il registratore di sogni, che purtroppo ancora non c'è. E a proposito dei vari luoghi in cui è stato Wenders, ne parlavamo poco fa. La foto di scena scelta come copertina della trasmissione di questa puntata, niente male, eh? Bellissima, bellissima. Somewhere in between. E questo era un classicone degli R.E.M., ovvero gli R.E.M., diciamo, e un pezzo molto molto bello, Fretless, che vuol dire senza fretta o con calma. Ne parlavamo poco fa, fuori onda, uno dei nostri pezzi preferiti, io è tra i 1500 brani che porto sul cellulare, quindi anche tu mi hai detto che di questo album ne porti tre. Sì, sì, è un bellissimo album dei R.E.M. E quindi bravi, contribuite a far arricchire i R.E.M., che non sono abbastanza ricchi senza il vostro appunto contributo, ma ne vorrei parlare perché mi ha colpito, rileggendo la loro biografia, sapere che hanno venduto all'incirca 85 milioni di dischi. Michael Stipe all'università incontra il chitarrista Peter Buck, con il quale forma i R.E.M., e il bassista, insieme al bassista Mike Mills e il batterista Bill Berry, formazione che poi è rimasta così fino alla fine. Dopo 16 album e 85 milioni appunto di dischi venduti, nel 2011 i R.E.M. si sciolgono. Però prima di questo vorrei fare un po' i conti in tasca a questo gruppo, che, come giustamente dicevamo fuori onda, non è il solo, insomma, a essersi arricchito. Infatti grazie... mi chiedevo, ma perché proprio con loro ce l'hai? No, però con loro sono, insomma, sono più sensibile, perché comunque sono stati anche un po' la faccia di quello che è stato tutto un movimento. Aspetta, fammi andare per ordine, non mi confondere. Quindi iniziamo così, con la prima uscita discografica del gruppo, che è l'LP Chronic Town del 1982. Poi c'è Murmur, in cui i R.E.M. diventano il gruppo del momento degli Stati Uniti, Reckoning del 1984, il terzo album è Fables of the Reconstruction dell'85 e Life Rich Pigeant dell'86, Document dell'87, segna l'inizio della seconda grande stagione dei R.E.M. Stipe e soci sono ormai delle star e le major fanno a gara per ingaggiarli. Alla fine la spunta la Warner, che paura, insomma, no? Con un contratto da capogiro, 10 milioni di dollari, ragazzi, parliamo, cioè non parliamo di proprio una cifra così irrilevante, 10 milioni di dollari, che con i quali ci si sarebbe potuto sfamare forse non tutto il terzo mondo, però insomma gran parte delle popolazioni in difficoltà in questi anni. Insomma, mi fa impressione sentire queste cifre. Il primo album dell'era Warner è Green, ovvero verde come il colore degli ecologisti, ma anche dei dollari. Il messaggio è una sorta di riarmo morale di fronte al cinismo di quegli anni, e in questo album è forte il sostegno al Tibet oppresso, oppresso, e alla lotta contro l'AIDS, dalle battaglie ecologiste alle campagne per i democratici. E i R.E.M. non perdono occasione per fare politica. In piena guerra del Golfo esplode l'album del trionfo mondiale Out of Time 1991, oltre 18 milioni di copie vendute, numero uno nelle classifiche USA e un'introduzione apocalittica. Il mondo sta collassando intorno alle mie orecchie mentre loro guadagnano un sacco di soldi. Stipe e soci si rifugiano nelle ombre di Automatic for the People, 17 milioni di copie, quando nel 94 esce Monster, 10 milioni di copie vendute. Poi New Adventures in Hi-Fi nel 1996, e che è una sorta di antologia di 4 decenni di musica popolare americana. Nel frattempo la band di Athens ha stipulato un nuovo super contratto con la Warner, 80 milioni di dollari incassati per produrre 5 album, senza costrizioni sui tempi di uscita, neanche si trattasse di una fabbrica. Questo contratto fu fino a quel momento il più alto mai firmato nella storia della musica, ed ecco perché sono stata colpita dalla storia produttiva e diciamo di dei REM. Seguono 3 album sconfortanti, perché con un contratto così cioè non hai neanche più voglia di scrivere canzoni effettivamente: Around the Sun, Reveal, Man of the Moon. Poi c'è Accelerate del 2008 e Collapse into Now, che giunge a 3 anni dalla ultima fatica e con il quale finisce per essere un album piuttosto trascurabile. E con questo album si capisce che i tre REM, per i tre REM la musica sia diventata una mera attività lavorativa da svolgere con diligenza e con affiatamento, soprattutto per guadagnare dei soldi. Coming, but life's forever dealing in hurt. Now life's like death without living. That's what life's like without you. Life's like Sanskrit read to a pony. I see you in my mind's eye, strangling on your tongue. What good is knowing such devotion? I've been around, I know what makes things run. What good is seeing our chocolate? What good's a computerized nose? And what good was cancer in April? Why no good? No good at all. Disease won't hurt you. Why no good? I guess no good at all. What good are these thoughts that I'm thinking? It must be better, huh, not to be thinking at all. A styrofoam lover with emotions of concrete. No, not much, not much at all. What good is life without living? What good's this lion that barks? You love the life of this throwaway nightly. It's not fair, not fair at all. What's good? Oh baby, what's good? What's good? not much at all. What's good? What's good? What's good? Life's good. Life's good. Life's good. What's good? Life's good. But not fair at all. E questa era What's Good di Lou Reed, che compare anche nel film. E sta in una stanza con delle cuffione gigantesche e suona la sua chitarra. è un altro bellissimo brano della colonna sonora di Fino alla fine del mondo, e questi erano i Depeche Mode, Death Door il nome della canzone. È difficile da credere adesso, ma questa musica allora, all'inizio degli anni 90, aveva anche un sound futuristico in qualche modo. I Depeche Mode ci conducono all'ospite di questa puntata, questa settimana di Tracce di Musica, il collega amico Steve Della Casa. Steve, ci sei? Buongiorno a tutti. Oh, un piacere averti di nuovo con noi. Come stai? Beh, ce la caviamo. Allora, io avevo ti volevo sentire. Chiaramente ci eravamo già sentiti un po' di tempo fa, tu in quell'occasione avevi un impegno, e devo dire che poi ho cercato, rispetto a Fino alla fine del mondo di Wenders e con altri amici e colleghi, ma ho anche avuto diversi rifiuti, perché proprio non è piaciuto questo film. Anch'io sono di questo parere, però noi chiaramente puntiamo più sulla musica, e sulla musica Wim Wenders fa delle scelte che non sono molto discutibili. Beh, lui ha dichiarato in tempi non sospetti che il rock gli aveva salvato la vita, di conseguenza se uno ha avuto la vita salva, per riconoscenza deve lavorarci molto sulla musica. Adesso, a parte gli scherzi e le battute, in realtà la musica dei suoi film non è mai banale, ama molto i Rolling Stones, che mette nei primi suoi lavori, ma ama anche la musica etnica, ama la musica rock, ama i Tamarind Seeds, che sono presenti nella colonna sonora Fino alla fine del mondo. Insomma, non è mai una musica banale quella che lui propone. Tra l'altro ho conosciuto Nick Cave proprio grazie al Cielo sopra Berlino. Beh, certo, Nick Cave è un altro appunto che è presente anche nella colonna sonora di Fino alla fine del mondo, ed è uno dei grandi talenti del rock che credo a sua volta debba qualcosa a Wenders, perché la diffusione che lui ha dato. Fino alla fine del mondo è uno strano film, perché è un road movie statico, cioè nel senso che è un film che racconta un viaggio, e questa non è una novità per Wenders, che sul viaggio, sul senso del viaggio, del cambiamento, della crescita attraverso il viaggio, che è una componente tipica del cinema americano, ha costruito gran parte del suo racconto cinematografico. È un viaggio talmente estenuato poi da risultare statico e avvolto completamente dalle musiche che lo contraddistinguono. Insomma, è una specie di esperimento, no? Sembra quasi una risposta ai videoclip. I videoclip usano la musica con immagini montate in maniera frenetica, ossessiva, eccetera. Lui usa la musica con immagini invece che sono volutamente lente, dilatate, sospese nel tempo. Insomma, sembra quasi una risposta diversa al modo di comunicare la musica attraverso le immagini, che è così diffusa in questo mondo. Recupera una narrazione molto più lenta, compassata, estenuata proprio, no? Potremmo dire. È abbastanza curioso quello che fa in questo film, che è uno dei film che ha maggiormente diviso la critica, lo dicevi anche tu, insomma, no? Sì, e ricordava anche Ottavia all'inizio della trasmissione che la distribuzione, per distribuirlo in sala, il film originariamente andava oltre le 5 ore, da noi è arrivata la versione di 2 e mezza, quindi chissà com'era la versione completa. L'ho vista, credo ancora, cioè, credo che si possa considerare ancora più lenta e astratta, insomma, ma del resto, insomma, è evidente che cosa volesse fare, insomma, no? Voleva appunto dire che il tempo della narrazione non deve essere quello concitato, così tipico della società contemporanea, ma trovare i suoi spazi, i suoi tempi e le sue modalità in maniera completamente diversa, insomma. Che poi ci sia riuscito o no, questo fa parte della valutazione di ognuno, insomma, lì su quello il gusto personale credo che sia l'unico vero possibile metodo di giudizio. servizio. Oh Steve, per quanto riguarda la parabola artistica di Wenders, io ho amato molto il suo periodo iniziale bianco e nero, e poi secondo me, sempre secondo me, il cielo sopra Berlino ha rappresentato un apice. Sì, guarda, in realtà è molto più, di solito appunto è considerato in due fasi, no? La fase road movie narrativa, dice, nella città nel corso del tempo, finché l'ha fatto scoprire al mondo è stato più nel corso del tempo. Io mi ricordo la prima proiezione italiana che avvenne al primo festival di Sasso Maggiore, che non si svolgeva neanche a Sasso Maggiore, nel 1977, e fu una vera e propria scoperta. Cioè nel 70 è vero che subito dopo il film fu comprato, fu distribuito da una piccola distribuzione, ebbe un grandissimo successo, e da quel momento Wenders è diventato un punto di riferimento. Ora credo che in realtà ci sia molta più continuità, cioè praticamente Wenders vuole raccontare, cioè racconta quasi sempre il viaggio, l'amore odio per l'America, che era lo stesso anche di Godard. Vi ricordate, Godard diceva: come posso io amare il cinema americano ma odiare John Wayne per le sue dichiarazioni sul Vietnam, però al tempo stesso amarlo quando prende Natalie Wood alla fine dei Sentieri Selvaggi, la alza verso il cielo. Insomma, questo amore e odio per il cinema classico americano è una componente fondamentale del cinema contemporaneo, e diciamo è quella che scandisce anche tutto il cinema di Wenders. Cioè è veramente una costante. È chiaro che quando questo esperimento diventa appunto astratto e estenuato, la pazienza dello spettatore che è abituato e comunque vuole vedere un cinema più narrativo, insomma, viene messo un po' in difficoltà. Però non ci vedrei tanto delle discontinuità o vari periodi. Secondo me lui fa quasi sempre lo stesso film, ed è paradossale, no? Perché appunto può fare un film sulla Cuba e sulla musica cubana pre-castrista, può mettere Ray Cooder che fa i suoi giri di chitarra, può usare Nick Cave, i Tamarind Seeds, eccetera eccetera. Sono musiche completamente diverse che però scandiscono sempre lo stesso tipo di racconto, insomma. Che faccia documentario, che faccia film di finzione, che faccia documentari su Pina Bausch, cioè lui praticamente fa sempre la stessa cosa, insomma. Sì, e io ti dicevo del cielo sopra Berlino, e tu hai giustamente ricordato anche il Buena Vista Social Club. Certo. Devo dire che poi dopo il decennio 90, secondo me, che è stato un po' in parte in declino rispetto alla filmografia, sì, che avevamo conosciuto, e poi ci sono state due buone prove americane come La terra dell'abbondanza e Non bussare alla mia porta, e poi sì, arriviamo poi all'ultimo periodo, quello dei due documentari che sono due capolavori, quello su Pina Bausch, sì, e Il sale della terra, e che sì, considero tra i 5 miglior film dello scorso anno. E sono andati bene commercialmente tutte e due, anche il suo rapporto con il pubblico è abbastanza altalenante, ma ripeto, è più di apparenza che di sostanza, insomma. Ed è anche curioso il fatto che negli ultimi film utilizzi la strumentazione tridimensionale, no? Perché di solito uno si aspetta da uno come lui, classico e puro, che non ami questa cosa un po' da baraccone, insomma, che il cinema in 3D, almeno come lo stiamo conoscendo noi nel multiplex e così via. Invece riesce a prendere anche quello e a farlo virare su quelli che sono i suoi interessi. È abbastanza curiosa l'operazione che fa complessivamente, anche il suo rinverdire passioni vecchie attraverso forme nuove. Non va neanche sottovalutata la sua attività per quanto riguarda la fotografia, perché ho visto recentemente una mostra fotografica sua, che peraltro era esposta a Roma, mi sembra al Palazzo dei Prefetti, insomma, che era straordinaria, insomma, faceva vedere a sua volta una passione per la foto che non fa stupire che poi abbia lavorato nel Sale della Terra con uno dei più famosi fotografi del secolo. Beh, ciao Steve, come ciao, stai? Ciao Dario. Bene, siamo, ce la caviamo. Bene, bene. Senti, invece io rivedendo questo film e avendo in mente gli altri lavori di Wenders, ho avuto la netta sensazione che insomma Wim Wenders sia un po' un filosofo contemporaneo, no? In questo film viene messo, diciamo, in evidenza l'angoscia che c'è verso diciamo l'attualizzazione del progresso, è pieno di metafore, l'ossessione dell'olocausto che attende l'umanità. Non mi sembra semplicemente un regista che racconta delle storie, mi sembra un regista che comunque fa un'analisi molto profonda e molto filosofica del nostro quotidiano, della nostra contemporaneità. Non so, tu che ne pensi? Sì, lui è sicuramente un intellettuale, come si diceva una volta, organico, cioè uno che interviene sui grandi temi. Diciamo che a volte lo fa in maniera più diretta, a volte in maniera più indiretta, a volte lo fa raccontando una storia che ha una sua, un personaggio che ha una sua vita autonoma, e altre volte invece lavorando più proprio sull'argomento specifico che ha deciso di raccontare, su quale ha deciso di intervenire. Sicuramente è un regista intellettuale, cioè un intellettuale nel senso buono del termine, cioè uno che prende posizione rispetto ai problemi del suo tempo. Credo che se uno vuole raccontare una specie di continuità in tutta l'opera di Wenders, credo che sia appunto l'amore e odio per l'America, credo che sia la cosa che maggiormente lo contraddistingue, e soprattutto è un sentimento abbastanza condiviso dalla sua generazione, insomma, che poi diciamo è più o meno anche la mia, insomma, cioè è un essere attratto e al tempo stesso avere una ripulsa nei confronti dello Stato più potente che c'è in questo momento al mondo, uno Stato che insomma fa il bello e il cattivo tempo, bombarda e così via, però ha una capacità di cultura, di mito, eccetera, che non può non essere comunque interessante e attrattiva. Oh Steve, non so se hai avuto modo di riascoltare la colonna sonora di Fino alla fine del mondo, ma per esempio Davide sostiene che è un album che si può ascoltare tranquillamente dall'inizio alla fine, che ha una sua conseguenzialità, e ci sono per esempio, nonostante poi l'eterogeneità degli artisti coinvolti, ci sono anche brani scritti appositamente per il film. No, certo, è un... recentemente non l'ho ascoltato, l'avevo ascoltato parecchio quando il film era uscito, e anch'io avevo notato questo fatto, insomma, che sembrava una... Un tempo si consideravano concept album, ha un po' a che fare con questa definizione. Beh, direi proprio sì, è un... forse l'ultimo vero concept album che ci sia stato anche perché mi ricordo che uscì ancora in vinile, cioè era ancora quelli che noi chiamavamo i padelloni, insomma, ed era un LP che ha una sua identità, una sua continuità, sì, questo sicuramente è, e questo però dimostra che Wim Wenders sceglie con la stessa attenzione le immagini che propone e la musica che l'accompagna. Bene Steve, noi ti ringraziamo, è stato un piacere, ci salutiamo con Nene Cerri per la colonna sonora sempre del film, e ci diamo appuntamento a una delle prossime puntate. Volentieri, grazie, ciao a tutti. driving quietly, the car was rolling like a bullet. Bella bella questo pezzo, questo brano dei primi anni 90, dove c'è tutto, c'è proprio la musica elettronica, ambient, bellissima. Si chiama Move With Me, è di Nene Cherry. Chi è Nene Cherry? È una cantante e rapper svedese, figlia di un percussionista della Sierra Leone, Amabdu Ja, e di una pittrice svedese. Utilizza lei il cognome del padre adottivo, che è il celebre trombettista jazz Don Cherry. Lei ha iniziato la sua carriera musicale collaborando con diversi punk, gruppi punk, new wave, e per poi lavorare come solista. Un brano molto celebre suo è Man Child, molto bello. It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it, the whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered in shards of broken glass, and all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames, and the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you, sin. Help me, girl. Hey, help me, girl. I'll love you till the end of the world. With your eyes black as coal and your long, long, long. Things we plan, we sit and we invent and we plot and cook up. Others are works of inspiration, of poetry. And it was this genius hand that pushed me up the hotel stairs to say my last goodbye to a hair white as snow and a pale blue eyes, saying, I gotta go, I gotta go. The bomb in the bread basket are ready to blow. In this town of men with big mouths and no guts, the pencil seller's dog spooked by the explosion, leaping under my wheels as I careered out of Longwood on my way to you, waiting in your dress of blue. I said, thank you, girl. Thank you, girl. Horses prancing through the fields, with my knife the rain on the shield. I sang a song for the glory of the beauty of you, waiting for me in your dress of blue. Sempre la colonna sonora di Fino alla fine del mondo, questa era Nick Cave and the Bad Seeds, I Love You Till the End of the World. Ottavia, ti piace questa canzone? Beh, questo pezzo, tutte le volte che lo ascolto, per me è sempre come la prima volta, mi emoziona tantissimo. Non vi annoierò con la biografia di Nick Cave, che probabilmente tutti voi conoscete, né con la sua discografia, però vorrei citarvi alcune delle sue affermazioni, insomma alcune delle sue esternazioni. Lui disse che questo, per esempio: a scuola scrivevo poesie terribili, poi ho imparato un paio di accordi al piano e il risultato erano alcune delle peggiori canzoni del mondo. Pensate un po'. Non è mai stato tenero con se stesso Nick Cave, anima tormentata della musica contemporanea, che arrivò a dire: tecnicamente e liricamente il mio lavoro è rimasto sempre incatenato alla medesima ciotola di vomito. Accadeva 12 anni fa, il periodo più buio della sua odissea. Sono sempre stato attratto dalle forze distruttive. A Melbourne, un fiume dove lui viveva, un fiume divide la città, da una parte l'università, i quartieri residenziali, dall'altra la zona dei drogati e delle prostitute. Io frequentavo la seconda. A 19 anni la prima esperienza con l'eroina consumata ricorda come bere una tazza di tè al mattino, come sedersi in poltrona a tirare su i piedi, la sensazione di essere a casa. Beh, Nick Cave diciamo che ha fatto parte della storia della musica e continua a farne parte, ed è sempre rimasto un personaggio scontroso e introverso. Ha rifiutato di partecipare spesso a premi eccetera, gli MTV Music Awards, e anzi ha chiesto perfino di essere cancellato dalle nomination, perché la sua musica non vuole essere in competizione con nessuno. È un grande artista, una grande persona con un animo sensibile profondissimo. Oh, siamo ai saluti, Ottavia, ricordi un po' di numeri? Sì, vi ricordo che potete sottoscrivere, se amate questa radio libera e indipendente da molti molti anni, al conto corrente postale 61 80 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma. E il telefono è 491750, lo sapete, sito www.ondarossa.info, email ondarossa@ondarossa.info, la nostra email invece è tracce di cinema @ondarossa.info. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. Ciao ciao!